20. Muscoli dolenti, carne squarciata, buchi di pallottole, sangue rappreso tra palpebre e occhi. Le orecchie contenevano tuoni. Per i guerrieri il giorno era finito così, con l'appello dei sensi caduti, feriti, dispersi nello scontro. Esausti si erano accasciati a poche miglia dal luogo della battaglia. Dai giacigli di lame coperte salivano gemiti e ronfi. Philippe sedeva su un tronco fradicio di muschio, braccia conserte, gomiti a toccare i fianchi, incapace di prendere sonno. La notte bagnava la pelle, i fuochi erano mesti. Chissà se Joseph dormiva. Le sentinelle erano presenze remote. Dall'altra parte della radura qualcun altro vegliava. Guerrieri giovani, troppo eccitati per dormire. A tratti una frase sbrecciava l'aria. Gli Oneida credevano... Non è più tempo di... Rumori nella notte, nulla di più. Di fianco a lui sedette qualcuno. Philippe non aveva sentito passi calpestare l'erba. L'uomo parlò in Mohawk, ma con un accento che riempì Philippe di malessere. La voce era roca, un colpo di tosse protratto nel tempo. «È sempre così. Ricordo com'ero io dopo la prima battaglia. Avrei potuto parlarne per giorni. Buffo, oggi di quello scontro ricordo ben poco». Philippe non rispose né si girò per vedere chi fosse il suo compagno di veglia. Continuò a guardarsi i piedi. Rimasero in silenzio per lunghi minuti. Philippe si fece più curvo e si strinse nelle braccia. Sentiva freddo. Dall'altra parte del campo le voci si erano spente. I giovani avevano trovato il sonno. «Adesso devo andare», disse lo sconosciuto. «Ti auguro una buona nottata, grande diavolo». Aveva parlato in Oneida. Philippe si volse a guardarlo. Shononsen aveva la testa sfondata, un'orbita vuota, il viso coperto di sangue. Si alzò e scomparve nella notte. Philippe pensò, alla buon'ora è successo, sono diventato pazzo. Raccolse un bastone e andò a rimestare le braccia del fuoco più vicino. Le fiamme presero corpo, asciugando l'aria in uno scampolo di notte. Di fronte a Philippe una bambina allungò le mani per scaldarsi. Una bambina. Philippe la conosceva bene. Le labbra tremarono, la mandibola serrò l'anima in una morsa, le lacrime travolsero gli occhi. Un taglio le attraversava la gola, il vestito era lordo di sangue. Dietro di lei una donna, altrettanto malconcia, con una mano le accarezzava la testa e scompigliava i capelli. Philippe cadde in ginocchio, le braccia inerti, piangendo come un cucciolo. La bambina gli sorrise. «Non è possibile», disse Philippe implorando moglie e figlia. «Siete morte tanto tempo fa». La bambina si avvicinò e tese le mani. Voleva che il padre la prendesse in braccio. Filippo voleva farlo. Avrebbe voluto. Lo desiderava da tanti anni, con tutte le sue forze. Non era passata notte senza che avesse sognato di stringerla ancora. Il volto del guerriero devastato dal pianto si mobilitò per formare un sorriso. Un sorriso disperato. «Vieni, bambina mia, vieni!» Ma la madre la richiamò. «Andiamo, amore! Andiamo!» La bimba agitò il braccio a salutare il padre. Il cuore di Philippe esplose. Madre e figlia si allontanarono, mano nella mano. Il fuoco continuava a bruciare. Era stato un brutto sogno? Il più brutto della sua vita, il più brutto della vita di chiunque, di tutte le vite messe assieme. Philippe si rialzò, si asciugò gli occhi con la manica. Giunse il singhiozzo a squassare la gola e la notte era più fredda che mai, anche accanto al fuoco. Una mano si posò sulla sua spalla, leggera. Philippe si volse e vide Sir William. Il vecchio era quasi trasparente, incorporeo, sorrideva, paterno, triste. Con lui c'era un gentiluomo dall'aspetto austero, solido, opaco come i vivi, senza nulla che facesse pensare alla morte, a parte la gamba mozzata che ancora spillava sangue. Si teneva in piedi grazie a una stampella. Sir William si congedò con un cenno del mento. «Ora di andare». Si allontanò con lo sconosciuto. Philippe li seguì con lo sguardo fin dove terminava la radura. Scomparvero e non riapparvero più.